guardie o ladri? Di Roberto Galullo. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Guardie o Ladri. Chi segue questa trasmissione sa che da circa 2 anni vi facciamo compagnia il sabato alle 19:30 parlando di temi di legalità e sicurezza, temi che affronto anche ormai da oltre 3 anni sul giornale del quale sono inviato, Il Sole 24 Ore, e colgo quindi l'occasione per dare il mio indirizzo di blog sull'home page del Sole 24 Ore. È un nuovo modo per dialogare e parlare con voi di temi di legalità e sicurezza. http://robertogalullo.blog.ilsole24ore.com. Ricordo anche la mail guardieoladri@radio24.it per chi volesse segnalare delle cose a questa trasmissione. Quella lì è tutta tua. Ne ho preso uno al centro trapianti del fegato. Stanotte sono scesi 11 morti e tu non me ne hai fatto fare neanche uno. Se fai questa, te ne fai due. Queste che ho pronunciato sono gli stralci delle intercettazioni dei verbali che hanno portato nelle scorse settimane a smascherare un traffico illecito a Milano di morti. Ebbene sì, stiamo parlando del business del caro estinto. Non è stata certamente questa la prima inchiesta condotta dalla magistratura a Milano, come in altre città, a Torino, a Roma, a Napoli, a Palermo, a Catania, a Bari. Purtroppo il connubio tra dirigenti sanitari disonesti, persone che negli ospedali lavorano, infermieri, e anche imprese di onoranze funebri disoneste, dicevo, non è la prima volta che questo connubio porta sulle prime pagine dei giornali a parlare del business del caro estinto, una cosa tanto più odiosa quando interviene poi in prossimità del ricordo dei nostri cari estinti, e come sapete questo fine settimana è segnatamente proprio dedicato alla memoria dei nostri cari che non ci sono più. Domani ricorre il 2 novembre. Per parlarne in maniera schietta e serenamente, possiamo dire, abbiamo innanzitutto chiamato a parlare con noi e interloquire con noi l'assessore ai servizi civici del Comune di Milano, l'assessore Stefano Pillitteri. Buonasera assessore. Buonasera a lei. Ma abbiamo con noi collegato, e lo ringrazio, Alessandro Bosi, che è il segretario nazionale del FENIOF, che è una federazione, è la federazione nazionale delle imprese onoranze funebri. Buonasera Bosi. Buonasera anche a lei, salve. Allora Pillitteri, che cosa è accaduto a Milano? Chi, visto che la trasmissione si chiama Guardie o Ladri, non ha vigilato su questo scandalo, che è uno scandalo che, ricordiamo, è di proporzioni vaste, anche perché ogni anno a Milano muoiono 13.000 persone e quindi 13.000 persone purtroppo, mentre si piangono, diventano un business appetibile per chi non ha scrupoli. Sì, in realtà sono 16.000, poi sono, sono 13.000 i servizi che vengono effettuati a Milano, comunque poco cambia evidentemente. Certo. E tra l'altro è un dato che è invariato tutti gli anni, cioè quello è un dato praticamente non... Che non muta, quindi ciò sì. Rende anche, per così dire, il mercato suscettibile di distorsioni, come tutti i mercati che non hanno elasticità, in cui evidentemente la richiesta è ferma. Certo, con un giro d'affari, ricordiamolo, ogni anno a Milano di circa 40 milioni di euro, e ogni giorno, ha calcolato la procura, c'è un business da 150.000 euro. Prego Pillitteri. Sì, sostanzialmente qua si tratta della tipologia che è più difficile far emergere, perché sostanzialmente sono tutte vicende che si svolgono a ridosso delle camere mortuarie e vengono effettuate nei confronti di persone, cioè chi ha perso un proprio caro, che sono anche in una situazione di debolezza psicologica. Quindi spesso rimangono sotto traccia perché non vengono denunciate. È una fenomenologia che peraltro esiste pressoché da sempre ed esiste non soltanto in Italia. Certo, ma il ruolo del comune, assessore, io leggevo sì. Per esempio che voi avreste uso il condizionale in mente anche di dare vita ad un'azienda che sarebbe il MISEF, un'azienda controllata al 100% da voi, dal comune, che lavorerà con alcune associazioni. Ecco, quindi il ruolo del comune qual è, per cercare di vigilare su questo che lei ha perfettamente ragione, è un fenomeno comunque difficilmente controllabile. Ma premesso che MISEF, che è appunto la costituente azienda speciale che sarà l'ente di gestione appunto dei servizi funebri, non si occuperà comunque di funerali, come invece fanno altre aziende speciali o società pubbliche in altre città italiane. Il ruolo del comune fondamentalmente qui è un ruolo di informazione nei confronti dell'utenza, tenuto conto che per l'appunto io non posso mandare i vigili a controllare le camere mortuarie, evidentemente. Certo. Quindi è chiaro che il mio dovere primario è quello di informare quest'utenza, che è un'utenza particolare e che evidentemente si trova in una situazione estremamente particolare, di quali sono i propri diritti e di quali sono appunto gli episodi in cui possono incorrere e che invece hanno che sono illeciti, tenuto conto che di per sé non è un reato il procacciamento di clienti, però è vietato e dalla legge regionale e dal nostro regolamento. Benissimo, allora io ringrazio intanto l'assessore Pilitteri e passo la parola a Bosi. Dicevamo prima, fuori onda, prima di iniziare la trasmissione, Bosi, che è interesse di tutti cercare di rendere quanto più possibile pulito il lavoro che si svolge, perché è chiaro che chi fa malaffare deve essere, come dire, isolato e cacciato. Allora le chiedo innanzitutto, visto che non c'è nessuna intenzione di criminalizzare chi lavora e chi fa impresa, qual è il ruolo della vostra federazione, Bosi, per rendere quanto più sereno possibile il rapporto tra chi è familiare di un deceduto e chi ha il compito di rendere un servizio funebre? Beh sì, innanzitutto la ringrazio perché mi dà una grande occasione per fare informazione, cosa che invece quotidianamente purtroppo non accade. Crediamo proprio come federazione che sia l'informazione lo primo strumento per poter far emergere questi comportamenti criminosi. Il problema è che 40 anni che la nostra federazione, che chiaramente tutela principalmente gli interessi delle imprese funebri rappresentate, ma che rappresentano anche la parte sana e maggioritaria della categoria imprenditoriale, che chiaramente dinanzi a simili comportamenti viene profondamente danneggiata. Sappiamo tutti che si fa purtroppo di tutto un erbo un fascio, no? E quindi a fronte magari dei comportamenti criminosi dei singoli e di pochi, insomma, alla fine tutta la categoria ne viene danneggiata. Questo purtroppo è una cosa gravissima che dobbiamo noi stessi condannare. Gli strumenti, dicevo, ci sono da più di 40 anni in realtà, perché se andiamo a prendere le corrispondenze pregresse che la nostra federazione ha mandato ai diversi livelli di governo negli ultimi 40 anni di attività, si scopre che la FENIOF, la federazione nostra, ha criticato da sempre questi tipi di malaffari. Ecco, e quali sono le proposte quindi che voi fate per cercare di colpire alla radice chi fa invece del malaffare la propria fonte di vita? Ma guardi, la cosa è veramente plateale. Se considera che in Italia sono circa 550.000 i decessi all'anno, a prescindere dai 16.000 di Milano, noi siamo ancora regolati come settore da una normativa che è vetusta, perché è del 1990 e non è dotata ancora di tutti quegli strumenti di verifica e controllo e requisiti sui soggetti dell'attività che esercitano l'attività funebre, che invece necessiterebbero in uno Stato moderno come l'Italia in questo momento. Ecco, qualche esempio può farcelo però, perché per esempio a Milano non si trattava e non si tratta di imprese propriamente secondarie, anzi. Ma qui il problema è sempre quello dei controlli. Allora, un conto è l'attività politica e un conto è l'attività reale e concreta sul territorio. L'assessore Pilitteri ha fatto una giusta premessa. In Lombardia c'è una legge regionale che ha superato il vuoto legislativo che c'è attualmente a livello nazionale. Ovvero, la legge nazionale, come dicevo, è vetusta, non è aggiornata. Le regioni, tra le quali anche altre, tipo l'Emilia Romagna, le Marche, l'Umbria, la Toscana, sono circa 11 ormai le regioni che hanno legiferato localmente, hanno superato questo impasse nazionale con delle normative aggiornate regionali. La Lombardia e l'Emilia Romagna in primis sono delle regioni che hanno inserito all'interno delle proprie normative dei forti strumenti di controllo e di quindi verifica. Non è un caso dunque che sia accaduto a Milano, nel senso che non è un caso che si è emerso, perché forse evidentemente questi filtri cominciano a funzionare. Ma sì, infatti è quello che noi spiegavamo già da tempo, anche perché se andiamo a ben vedere la legge regionale cosa prevede come funzioni amministrative del comune, ecco, l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre e la verifica dei requisiti delle imprese sono funzioni principali affidate proprio al comune. Guardie o ladri? Bentornati all'ascolto di Guardie o Ladri, chi vi parla è Roberto Galullo. Subito ricordo l'indirizzo al quale scrivere: guardieoladri@radio24.it, ma vi ricordo anche il mio indirizzo blog sull'home page del sito internet del Sole 24 Ore, robertogalullo.blog.ilsole24ore.com, o se preferite sull'home page del Sole nello spazio Agora ci sono i blog di tutti i giornalisti del Sole 24 Ore, che ne hanno appunto uno, e lì troverete anche il mio, che si chiama Guardie o Ladri. Perché? Perché parliamo di temi di legalità e sicurezza, come stiamo facendo oggi con i nostri ospiti. Domani il 2 novembre, lo sapete, questo è un fine settimana dedicato alla memoria delle persone che ci sono state care e che non ci sono più. Purtroppo la morte diventa un affare per molti. Abbiamo seguito nei giorni scorsi delle inchieste della Procura di Milano su un business milionario nella provincia di Milano, che sicuramente non è stato stroncato ma è stato colpito. Un business da 40 milioni di euro all'anno solo per la provincia di Milano, e noi stiamo cercando di capire appunto come si vigila in modo tale da non avere delle sciagure da una parte, dei drammi familiari da una parte e delle indegne situazioni di lucro dall'altra, da parte di imprese di onoranze funebri che non fanno correttamente il loro mestiere. E ne stiamo parlando con Alessandro Bosi, che è il segretario della federazione che le raggruppa, le imprese di onoranze funebri, e con l'assessore ai servizi civici del Comune di Milano, Stefano Pillitteri. Allora le chiedo, Bosi, alcuni consigli pratici da dare al cittadino che non vuole incorrere in imprese truffaldine. Beh, la cosa principale è che al momento del decesso non bisogna affidarsi a chi non interpellato si propone di occuparsi della pratica del decesso e di tutto quello che attiene poi il servizio funebre. È importante non dare ascolto ovviamente a chi propone un'impresa piuttosto che un'altra, sia che il consiglio giunga da personale di imprese funebri che da personale sanitario, quali appunto infermieri, portantini, eccetera. È giusto che il cittadino sappia che è libero in ogni momento di scegliere in totale autonomia il soggetto al quale affidare le esequie del defunto senza pressioni o suggerimenti di terzi. È anche giusto sottolineare che non ci sono, che se ne dica, imprese funebri convenzionate con gli ospedali, e quindi il cittadino non è mai obbligato a rivolgersi all'impresa che magari lo affianca o lo avvicina all'interno dei contesti sanitari. Fortuna anche che i cittadini che sono toccati dall'evento morte di fatto delegano poi tutto l'esecuzione del funerale a un parente che magari è meno coinvolto emotivamente dal decesso, perché è evidente che nel momento di cosiddetta particolare fragilità, no, psicologica nel quale il dolente viene a trovarsi, si tende poi a fare delle scelte delle quali poi è facile pentirsene, sia in ordine al soggetto al quale affidare le esequie che anche in ordine ai costi, chiaramente. Quindi è opportuno anche a tal fine fare proprio un preventivo dettagliato di tutte le voci attinenti al servizio funebre, con un'evidenza chiarissima dei prezzi dei servizi resi, ecco, della componentistica e degli accessori. Ecco, ringrazio Bosi per la trasparenza che dimostra a nome di tutte le imprese di onoranze funebri oneste. Sono ovviamente la gran parte, ma come accade, quel nocciolo, quel pugno di persone disoneste poi inquina tutti, e questo accade ovviamente in ogni categoria di imprese o professionisti. Grazie a Bossi per il suo intervento. Assessore Pillitteri, il comune che cosa può offrire al cittadino? Innanzitutto, dal punto di vista dell'informazione, noi abbiamo realizzato l'anno scorso un vademecum sostanzialmente che si chiama la tutela del dolente, e la tutela del dolente è un nostro obiettivo, per così dire, strategico, cioè cercare di realizzarla il più possibile. E questo è un opuscolo informativo che abbiamo diffuso in tutti i posti in cui purtroppo la gente viene a mancare, e tra le altre cose, oltre a indicare quelli che sono gli adempimenti, indichiamo anche quelli che sono i rischi, dicendo: guarda che se qualcuno ti avvicina sta facendo un qualcosa che è illecito, denunciacelo sostanzialmente. Benissimo. Purtroppo appunto le denunce che ci arrivano non sono tantissime, se mi è consentito un aneddoto, ad esempio ci è capitato l'anno scorso che un accaparratore di clientela è incappato in una nostra dirigente, ovvero una nostra dirigente aveva perso un proprio familiare e ha subito appunto questo trattamento, cioè una persona l'ha avvicinata, ma ahi lui, appunto, si trattava di una persona che lavora qui con noi, ce l'ha prontamente denunciato e noi l'abbiamo denunciato alla magistratura per tutti gli accertamenti del caso, però purtroppo nella maggior parte dei casi ciò rimane sotto traccia. Allora, io, assessore, la ringrazio di questo suo invito alla denuncia. Ricordiamo in generale che soltanto denunciando si può uscire dalle situazioni. Lo ricordo ancora, lo Stato non è altro, siamo noi. Quindi siamo noi che dobbiamo per primi farci carico delle situazioni di illegalità. Con questo io ringrazio l'assessore Stefano Pillitteri per il suo intervento e apriamo una nuova pagina del nostro capitolo del Caro Estinto. In questi ultimi mesi le forze di polizia hanno concluso importanti operazioni sul racket del Caro Estinto gestito dalla Camorra. Ma come agivano questi clan? Imponevano alle ditte concorrenti l'uso dei carri funebri e di altri articoli della loro società per tutti i funerali celebrati nei comuni controllati dall'associazione camorristica. Questo è il racket delle pompe funebri e oggi cercheremo di entrare in questo mondo. Ci fingiamo due becchini a bordo di un carro funebre con tanto di bar. La nostra missione è di effettuare il trasporto di una donna deceduta in provincia di Napoli ma residente a Milano. Normalmente, per il disbrigo pratiche di una salma, ci si può rivolgere al comune dove è venuto il decesso, o in alternativa, rivolgersi a un'agenzia del posto. Noi scegliamo di andare in un'agenzia. Ebbene, quella che avete sentito era una breve registrazione che abbiamo tratto da una delle ultime puntate delle Iene mandata in onda su Italia 1. È un lungo servizio che fa riferimento appunto al racket del Caro Estinto a Napoli e in Campania. La voce che avete ascoltato nell'intervista era quella del comandante Orazio Iagnello del comando provinciale di Napoli, e avete sentito anche il viaggio dell'inviato delle Iene a Napoli per cercare di trovare sepoltura ad un morto inesistente venendo da un territorio che non era propriamente quello napoletano, quindi si era una sorta di intrusi. Per chi avesse visto la puntata delle Iene sa che la storia non va a lieto fine, vale a dire, l'inviato delle Iene incontra moltissime difficoltà a seppellire questo morto che viene da fuori regione e ad un certo punto è anche costretto a scappare da una di queste agenzie. Si faceva riferimento alle indagini condotte in Campania. Ebbene, quelle indagini non sono state le prime e non saranno le ultime, soprattutto, diciamo così, che atti di criminalità e di vandalismo nei confronti dei morti sono continue. Io leggo dal Mattino di Napoli del venerdì 17 ottobre, sembra fatto apposta anche la data, questo titolo sul Mattino: bare abbandonate nei viali del Policlinico, blitz dei carabinieri, indumenti dei defunti e resti di casse gettati vicino all'obitorio, denunciato il direttore sanitario. Ebbene, una vicenda tra l'altro denunciata da un consigliere comunale proprio sull'irregolarità dello smaltimento dei rifiuti prodotti dall'obitorio giudiziario. Insomma, alla fine tutto ciò ha dato luogo ad una inchiesta della procura che sta indagando anche per smaltimento illecito, ma quello che dovreste vedere sono le immagini sul Mattino di Napoli, ripeto, del 17 ottobre, in cui è veramente indecoroso e indecente vedere ogni genere di rifiuto, provette usate in laboratorio, resti resti di bare, vestiti dei cadaveri, computer, batterie, gabinetti, sacche usate per trasportare i cadaveri, tutto mischiato, insomma veramente uno scandalo. Direi di terminare in questa maniera questa puntata dedicata al racket del caro estinto. Prometto ai radioascoltatori che comunque torneremo su questo argomento, perché purtroppo dà vita e genera un business incredibile per le mafie. Dico grazie in regia Giorgio Mattei, in studio a Laura Fagin, e vi ricordo due cose. La prima è il nostro indirizzo mail guardieoladri@radio24.it. La seconda è il mio blog sull'home page del Sole 24 Ore. Ci arrivate attraverso lo spazio Agora. Scorrendo sui visi dei giornalisti troverete ad un certo punto il mio blog Guardie o Ladri. È un modo nuovo per dialogare. Se vorrete visitare il mio blog sarà per me una cosa sicuramente gradita, anche perché attendo critiche e proposte. Da Roberto Galullo una buona serata a tutti e a risentirci sabato prossimo.